Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. Minuti, Focus Economia, un buon inizio di settimana da Vincenzo Miglietta, settimana che si è aperta con le voci che rimbalzano da Pechino di un interessamento di un costruttore cinese per il gruppo Fiat Chrysler. Il titolo della casa italo-americana ne ha risentito in positivo, salendo di oltre l'8%, superando in questo momento 10,60 euro ad azione. Una boccata di ossigeno salutare, visto che dollaro debole e la correzione dei mercati della scorsa settimana avevano portato venerdì il titolo FCA ai minimi. E della crescita di Fiat Chrysler ne beneficiano logicamente anche gli altri titoli della galassia Fiat. A questo punto diamo un rapido sguardo all'andamento dei mercati, partendo proprio da Milano, con il FTSE MIB in questo momento più 1,80% a 21.739 punti. I migliori e i peggiori al momento del FTSE MIB, dunque il migliore Fiat Chrysler, a seguire Exor, sempre del gruppo UbiBanca, Ferrari e Yux. I peggiori: Eni, Poste Italiane, Tenaris, Brembo, Saipem. I titoli più scambiati: Fiat Chrysler, Unicredit, Intesa, San Paolo, Enel, Eni e via via gli altri. E così vediamo gli altri listini europei. In questo momento il DAX Francoforte più 1,39%, FTSE 100 Londra più 0,92%, Parigi, CAC 40 più 1,39. Ora Wall Street, con il Dow Jones in questo momento più 0,69, Standard & Poor's 500 più 1,02, Nasdaq più 1,23%, il cambio euro-dollaro 1,178. Lo spread poi dei titoli di Stato BTP nei confronti del Bund tedesco a 158,80 punti, meno 3,17%, dunque un inizio di settimana in negativo per lo spread, vista la crescita comunque della scorsa settimana. Sin qui dunque i mercati. Tra gli altri temi di oggi, il canone RAI, il gettito portato allo Stato e all'azienda di Viale Mazzini dal pagamento di questa tassa nella bolletta elettrica. E poi, sempre in tema di fisco e tributi, l'allarme lanciato dai comuni dell'area del sisma del centro Italia, dove a loro dire non sarebbero stati mantenuti gli impegni del governo su no tax area ed esenzione totale. Infine il ciclone Trump negli Stati Uniti, chi lo appoggia, chi ne prende le distanze, le frequenti nomine e le dimissioni, da ultima quella della D di Merck Pharma dopo gli incidenti di Charlottesville. Lo abbiamo sentito anche poco fa nel GR delle 17, insomma il vuoto, secondo alcuni, di potere alla Casa Bianca. Potete scriverci al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Facebook di Focus Economia o sul sito di radio24.it. Questo dunque il nostro sommario. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che prendiamo in considerazione partendo dall'oro e dal petrolio. Per quanto riguarda l'oro, meno 0,6% a 1.280 dollari l'oncia, il petrolio più 0,2% a 48,9 dollari il barile. E per quanto riguarda il petrolio, questa risalita del greggio deriverebbe dalle voci circolate domenica di un taglio del 30% da parte dei maggiori produttori libici. Economia internazionale, vola il Bitcoin, la moneta virtuale schizza per la prima volta sopra i 4.000 dollari, spingendosi a 4.033 dollari. Lo riporta il Wall Street Journal. Si tratta di un nuovo record nei 9 anni di vita del Bitcoin, salito domenica del 3,1% e del 25% dall'inizio di agosto. A differenza dei titoli azionari e degli asset tradizionali, che vengono scambiati in determinati giorni e orari, il Bitcoin è scambiato elettronicamente 24 ore al giorno, inclusi i fine settimana. Venezuela, il presidente Trump è convinto che lavorando insieme ai nostri alleati in America Latina saremo in grado di ottenere una soluzione pacifica per la crisi sofferta dal popolo venezuelano, lo ha detto il vicepresidente americano Mike Pence a Cartagena, dove ha incontrato il presidente colombiano Juan Manuel Santos. Anticipiamo alcune notizie relative a Trump, notizie che approfondiremo nell'ultima parte di Focus Economia. L'amministratore delegato del colosso farmaceutico Merck, Ken Frazier, lascia il consiglio dei leader manifatturieri della Casa Bianca di Donald Trump. Dobbiamo respingere l'odio e l'intolleranza, dice Frazier, dicendo addio all'organismo voluto da Trump sulla scia degli incidenti di Charlottesville in Virginia e la mancata condanna dura del presidente americano. Sento la responsabilità di schierarmi contro l'intolleranza e l'estremismo. Queste le dichiarazioni di Frazier. A stretto giro la replica di Trump, che dice: ora che Ken Frazier di Merck si è dimesso dal consiglio per la manifattura, avrà più tempo per ridurre i prezzi dei medicinali, che sono un furto. Lo dice Trump, dunque criticando con un tweet la decisione di Frazier di lasciare il consiglio dei leader industriali alla Casa Bianca. Ed ancora, isolare coloro che cercano di dividerci, lo afferma l'amministratore delegato di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, intervenendo sugli scontri di Charlottesville in Virginia. Blankfein cita il presidente Abraham Lincoln quando disse: una casa divisa non funziona, ovvero il successo si ottiene quando si è uniti. Al dibattito si aggiunge e si unisce anche il Financial Times, che denuncia il vuoto alla Casa Bianca emerso dopo gli scontri di Charlottesville e dopo la mancata dura condanna del presidente Trump. Un momento terribile conferma i timori peggiori sull'amministrazione americana, afferma il quotidiano. La Casa Bianca non è occupata, è libera e questo vuoto va riempito. La responsabilità di riempirlo sta ai repubblicani, anche se ci sono poche indicazioni sul fatto che lo faranno. Questo quanto si legge su sulle pagine del Financial Times. Sempre Trump, ma in virtù delle nuove regole per quanto riguarda Wall Street, gli sforzi dell'amministrazione Trump per allentare la riforma di Wall Street diventano realtà. Le autorità americane stanno lavorando a nuove norme più morbide che prevedono un allentamento della Volcker Rule. Questa è una regola che prende il nome dall'economista Volcker, che limita attualmente le attività speculative bancarie, ma si lavorerebbe anche a una rimozione dei paletti e delle restrizioni ai bonus. Tutto questo lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando come mentre l'agenda del presidente non riesce a decollare in Congresso, l'amministrazione sta spianando la strada a cambiare una miriade di leggi alle quali Wall Street si oppone da anni. Dagli Stati Uniti all'Asia, Giappone. L'economia giapponese accelera nel secondo trimestre 2017 con una crescita congiunturale dell'1% e del 4% su base annualizzata, la più alta dal 2006, sulla spinta dei consumi privati saliti dello 0,9%. Le spese societarie, ha reso noto l'ufficio di gabinetto, salgono per l'ottavo trimestre di fila con un più 2,4%, mentre gli investimenti pubblici del 5,1% in scia al pacchetto di stimoli all'economia voluti dal governo. E l'export scivola per la prima volta in quattro trimestri dello 0,5%. La Cina ora annuncia una nuova stretta alle importazioni dalla Corea del Nord. Le misure operative da domani prendono di mira e mettono al bando beni come il ferro, grezzo e semilavorato, il piombo e i frutti di mare. Nella lista comunicata dal Ministero del Commercio rispunta il carbone, che era stato già bloccato nei mesi scorsi per tutta la durata del 2017. In cui i rapporti Cina-Corea del Nord. Per quanto riguarda Pechino, la produzione industriale frena a luglio, salendo del 6,4% annuo contro il 7,6 di giugno e il 7,2 atteso dagli analisti. E il ritmo più debole da febbraio 2017 sconta il manufatturiero, sceso a quota più 6,8%, e il comparto minerario in calo dell'1,3%, mentre elettricità, gas e interventi per l'energia salgono del 9,8%. Su base mensile, riferisce l'Ufficio Nazionale di Statistica, la produzione sale dello 0,41%, dimezzando il più 0,81% di giugno. E veniamo al capitolo di Fiat Chrysler. Fiat Chrysler, abbiamo detto, in rialzo in questo momento del 7,94%, praticamente viene quotato il titolo a 10,6 euro. Da dove nascono queste voci dell'interessamento di un costruttore cinese? Ovvero, secondo il sito americano Automotive News, alcuni gruppi automobilistici cinesi sarebbero interessati all'ex lingotto. In particolare viene indicato uno scambio di incontri tra manager FCI di Great Wall, prima in Cina e poi nel quartier generale di Auburn Hills in Michigan. Logicamente non c'è nessun commento da parte di FCA, le indiscrezioni di un interesse da parte di gruppi cinesi, in particolare Great Wall, l'indiscrezione di un possibile interessamento, come abbiamo detto, viene ritenuta non abbastanza allettante, secondo indiscrezioni apparse sempre sul sito specializzato USA Automotive News. Ricordiamo che le acquisizioni della Cina sul mercato internazionale, soprattutto europeo, sono sotto la lente di ingrandimento di Bruxelles e l'Unione Europea si prepara proprio ad inasprire i controlli sulle acquisizioni di società europee da parte di aziende extraeuropee. Lo riporta il Financial Times, citando alcune fonti, secondo le quali la stretta punta ad affrontare i timori sollevati dagli ingenti investimenti cinesi nel vecchio continente. Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, annuncerà la stretta in settembre, colmando così quel gap percepito fra le norme europee e quelle americane che prevedono controlli maggiori per le acquisizioni nei settori strategici. Ed ancora, il Consiglio europeo a giugno ha chiesto alla Commissione di analizzare investimenti di paesi terzi in settori strategici nel rispetto delle competenze nazionali. Stiamo lavorando su questo e pianifichiamo di presentare iniziative concrete in autunno, così un portavoce della Commissione europea, commentando proprio le anticipazioni del Financial Times che abbiamo riportato poc'anzi. Adesso la produzione industriale in calo a giugno rispetto a maggio è diminuita nell'eurozona dello 0,6% e dello 0,5% nell'Unione allargata a 28. A maggio aveva fatto un balzo dell'1,2% in entrambe le zone, lo comunica Eurostat. Su base annuale, quindi rispetto a giugno 2016, l'aumento è del 2,6% nell'eurozona e del 2,9% nell'Unione Europea in generale. In Italia invece, su base mensile, lo abbiamo visto la scorsa settimana, cresce la produzione industriale dell'1,1% e su base annuale del 5,3%. I rialzi più forti rispetto a maggio si registrano in Lussemburgo, più 3,4%, Estonia, Croazia e Olanda, più 1,2%. Tra i paesi dove la produzione è calata di più su base mensile ci sono invece Irlanda, ben meno 7,5%, Repubblica Ceca, meno 3,8% e Malta, meno 3,2%. È attesa questa settimana per gli ulteriori dati sul PIL italiano. Siamo ora alle notizie relative al nostro paese. Il PIL dovrebbe crescere dello 0,4% nel secondo trimestre dell'anno e dell'1,4% annualizzato, quindi nel 2017. Questa è la previsione di economisti ed analisti secondo il consensus stilato dall'agenzia Bloomberg. Dopo il più 0,4% conseguito nel primo trimestre e l'analogo risultato atteso per il secondo trimestre, gli economisti hanno rivisto al rialzo da più 0,2 a più 0,3 le previsioni sul terzo trimestre. Anche nell'ultimo quarto dell'anno il PIL è visto in progresso dello 0,3%. I contribuenti italiani sono diventati più attenti e stanno ormai imparando a cogliere tutte le opportunità per alleggerire il peso del fisco. Apriamo così un capitolo relativo a fisco e tasse, tanto che negli ultimi anni i rimborsi IRPEF sono cresciuti costantemente fino a sfiorare quest'anno i 20 miliardi di euro. A tanto infatti, per l'esattezza, 19 miliardi e oltre 600 mila euro ammonta complessivamente la cifra che con gli stipendi di fine agosto e le pensioni del primo di settembre gli italiani finiranno di incassare per i redditi del 2016. I contribuenti che hanno chiuso la dichiarazione in credito sfiorano i 21 milioni, poco più della metà del totale, 40,2 milioni, in costante crescita negli ultimi anni. L'importo medio restituito si aggira sui 950 euro a persona, anch'esso in aumento. E veniamo, sempre parlando di tasse e fisco, all'attività relativa a quest'estate della Guardia di Finanza. Dal 1 luglio alla prima settimana di agosto la Guardia di Finanza ha effettuato 11.300 controlli nelle località di vacanza, con una media di 240 interventi al giorno. Le verifiche fanno parte del piano straordinario di interventi per la tutela dell'economia legale nel periodo estivo. Un punto il tenente colonnello Cosmo Virgilio al microfono di Adriano Palazzolo. Ascoltiamo. Più di 11.300 i controlli effettuati dal 1 luglio di quest'anno, ma l'attività prosegue per tutta l'estate. In questo settore abbiamo individuato più di 460 venditori abusivi, 1.600 quelli che pur in possesso di autorizzazioni e licenze commerciali in realtà violavano in vari modi la disciplina fiscale nel settore del commercio, 370 i casi di affitti in nero, più di 12 milioni di prodotti sequestrati perché contraffatti, insicuri o perché violavano la disciplina del Made in Italy, 1.000 distributori controllati su tutto il territorio nazionale con il 20% di incidenza di regolarità, 800 circa interventi nei confronti dei money transfer e circa 1.500 lavoratori in nero irregolari scoperti su tutto il territorio nazionale. Questa è l'attività in generale della Guardia di Finanza per queste prime settimane estive, abbiamo detto dal 1 luglio alla prima settimana di agosto. Quello che ci ha colpito di più, perché forse tutti ne abbiamo approfittato in passato o ne stiamo approfittando in queste settimane, è la classica casa al mare affittata, solo che la Guardia di Finanza ha fatto emergere un fenomeno preoccupante, che è quello delle abitazioni senza i minimi requisiti igienico-sanitari che vengono affittate, il più delle volte riempite sino all'inverosimile, tanto da essere definite vere e proprie case pollaio. Anche su questo allora andiamo ad ascoltare il tenente colonnello Cosmo Virgilio, sempre al microfono di Adriano Palazzolo. Noi abbiamo condotto in questo periodo più di 800 interventi proprio a contrasto del fenomeno degli affitti in nero delle seconde e terze case nelle località turistiche, soprattutto di mare e montane. Circa 450 le violazioni riscontrate, e di queste sono decine i casi che afferiscono al fenomeno delle case pollaio, soprattutto diffuso nel Salento, in particolare a Gallipoli, dove i nostri colleghi del comando provinciale di Lecce hanno individuato appunto decine di queste case sovraffollate, affittate a ragazzi di una fascia d'età tendenzialmente compresa fra i 16 e i 28 anni, in molti casi senza il rispetto delle minime condizioni igieniche. In un caso addirittura è stato riscontrato dai colleghi la locazione di un deposito, di un magazzino che non aveva i minimi sistemi di areazione e aveva anche un bagno cieco abbastanza angusto, quindi che non garantiva assolutamente alcun tipo di comodità. Con il rapporto della Guardia di Finanza abbiamo chiuso le notizie in breve, le nostre headline. Siamo già al nostro primo approfondimento, parliamo del canone RAI, ne parliamo con il collega Le Sole 24 Ore, Giovanni Parente. Buon pomeriggio Giovanni. Buon pomeriggio a voi. Grazie Giovanni della tua partecipazione. Ricordo che tra il 2015 e il 2016 gli italiani che hanno pagato il canone sono passati da 16,5 a 22,2 milioni, con un incremento del 34%. La maggior quota di evasione si registra nelle isole, evidentemente quindi il delta tra chi lo pagava prima e chi lo paga ora, dove il numero dei contribuenti che hanno versato il canone è salito del 49,8%, passando da 1,5 a 2,2 milioni. Giovanni, allora, sono numeri questi che ti stupiscono, che ci fosse un'evasione così alta nel passato, o era presa già in considerazione dagli esperti del settore? No, si trattava di un'evasione che era in qualche modo già emersa anche dagli stessi rapporti della RAI sulle potenziali zone grigie o zone nere, chiamiamole così, di mancato versamento del canone di abbonamento televisivo. Certo, fa veramente specie vedere che dall'anno a un altro, cioè con un meccanismo sostanzialmente di sostituzione d'imposta, che è tipo quello che si adotta per i lavoratori direttori dipendenti e pensionati, il numero di contribuenti si è cresciuto di 5,6 milioni. cioè stiamo parlando di una quota rilevantissima, quindi quasi 6 milioni di italiani che fino al 2015 non pagavano minimamente il canone di abbonamento radiotelevisivo. È un'evasione scoperta, portata in nero, come dicevi giustamente tu, in valore percentuale il delta non fa che in qualche modo anche ricalcare le aree in cui tutti i rapporti che ci sono stati di costruzione dell'economia sommersa hanno detto, insomma, che dicono che nel sud, nelle isole, c'è questo problema che è maggiormente sentito, senza voler in qualche modo poi dimenticare che l'evasione è un fenomeno trasversale in Italia, quindi riguarda un po' tutte quante le regioni, ma sicuramente colpisce, no, che ci sia un 50% di soggetti in più che in Sardegna, tra Sardegna e Sicilia da un anno all'altro si sia scoperto obbligato a versare il canone di abbonamento radiotelevisivo. Stiamo parlando di soggetti privati, no? Perché questa è la platea di riferimento dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate. Certamente ci sorprende, immagino sorprenda anche i nostri ascoltatori, un 50% in più in un solo anno, quindi 5,6 milioni di evasori che, se non sbaglio, Giovanni, hanno incrementato di molto sia la quota parte che va direttamente a Viale Mazzini, quindi alla RAI, ma anche per lo Stato sono soldi importanti. Assolutamente. Pensa che da un anno all'altro, insomma, e il dato ci viene dalle statistiche del Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Tributarie, si è passati da 1,7 miliardi di entrate dal canone RAI a oltre 2 miliardi. E pensa che la dinamica dei primi 6 mesi dell'anno parla di 843 milioni. Questo nonostante ci sia stato una progressiva riduzione del canone RAI, cioè del canone singolo, quindi insomma si paga di meno ma pagano più soggetti e quindi aumentano le entrate per l'erario. Ecco Giovanni, chiedo a te, lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, se hanno voglia di partecipare al nostro dibattito, al 349-238-6666, l'incremento, d'accordo, quasi del 50% degli evasori, però poi entrando nel merito, siamo sicuri che tutti quelli che non lo pagavano poi siano persone che lo facevano con malafede, ovvero che comunque avevano il possesso di un televisore, che vedevano la televisione, o forse molti anche, ci sarà una percentuale di gente che si è adattata di fatto ormai perché è obbligata a pagare il canone RAI nella bolletta. Sì, si presenta insomma che il meccanismo agisce in modo tale che il gestore, cioè chi eroga l'utenza di energia elettrica, opera direttamente alla ritenuta del canone RAI in bolletta, però ogni singolo contribuente aveva la possibilità ad esempio di dichiarare che sotto la propria responsabilità che non ha che non aveva un apparecchio per la ricezione radiotelevisiva nella propria abitazione, oppure ad esempio che si trattava di seconde case non abitate, oppure altre situazioni per cui è prevista l'esenzione del canone RAI. Quindi, e per questo, scusami Giovanni, abbiamo una percentuale di chi ha usufruito di questa esenzione? Di chi ha chiesto l'esenzione? Al momento no, però insomma c'è diciamo dalle indicazioni che abbiamo ricevuto, cioè c'è stata una percentuale comunque che va tenuta in considerazione complessivamente. Quindi insomma ci sono queste situazioni che possono essere state, ma al netto di questo guarda, comunque stiamo parlando di 5,6 milioni di italiani, che quindi sono veramente tanti, ecco, anche qualora ne considerassimo che fosse un 10%. Non sento più Giovanni Parente, invece lo vorrei sentire perché gli vorrei chiedere altre cose. Allora approfittiamo per andare in pausa, per la pausa meteo, e poi di nuovo parliamo di canone RAI con Giovanni Parente. Focus Economia. Focus Focus Economia di nuovo insieme, Vincenzo Miglietta, 17 e quasi 33 minuti. Stiamo parlando di canone RAI in bolletta. Sono usciti i primi numeri di questo esperimento, chiamiamolo così, perché un anno fa fu introdotta il meccanismo del canone RAI pagato nella bolletta elettrica. Ne stiamo parlando con il collega del Sole 24 Ore, Giovanni Parente. Giovanni, una domanda che ci viene fatta anche al 349-238-6666. Questi sono i numeri che abbiamo detto dell'incremento, ovvero un 50% in più di persone, ovvero prima era il 50% della platea a non pagare il canone RAI. Per chi non pagava il canone RAI, sono da prendersi in considerazione ulteriori accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sugli anni passati non pagati? Allora, in linea di principio non c'è nessuna esclusione da questo punto di vista, quindi insomma tutto potrebbe essere possibile. Bisognerà capire se c'è una reale intenzione di proseguire lungo questa linea e di verificare appunto questi soggetti. Mi sembra insomma che l'obiettivo fondamentale di tutta l'operazione fosse indurre a far pagare in maniera stabile chi prima non pagava. Quindi insomma, nel momento in cui è emerso chi non pagava, probabilmente il vero obiettivo poi è mantenerlo stabilmente nel corso dei prossimi anni. Insomma, bisognerà vedere se insomma, il fisco poi intenderà approfondire meglio anche le situazioni sul passato vuole mantenere una quota di emersione costante e cospicua nel corso dei prossimi anni. Ecco Giovanni, un'altra curiosità: siamo partiti, se non sbaglio, dall'ultimo canone pre-bolletta, che era di 113 euro, e con la bolletta c'è stata la diminuzione a 100 euro. Quale sarà il percorso di abbattimento, immagino io, del canone RAI da qui ai prossimi anni? No, già quest'anno è 90 euro, quindi siamo già scesi. L'obiettivo è che questo tesoretto, quindi chiamiamolo così, dai, cioè che quello che tecnicamente si chiama extragettito del canone RAI, debba essere destinato fino al 2018, lo prevede espressamente la legge di stabilità 2016, a alzare la soglia di esenzione per gli anziani, sì, che hanno insomma redditi fino a 8.000 euro, e soprattutto ad abbassare la pressione fiscale sui contribuenti che possiedono il televisore, quindi a probabilmente a ridurre ulteriormente la quota del canone RAI. Poi se qualora dovesse permanere ancora una fettina insomma di gettito ulteriore, ci sarebbe insomma la possibilità di destinare delle quote anche alle emittenti radiotelevisive a livello locale. Quindi insomma a sperare che l'operazione abbia un buon esito, anzi un ottimo esito, sono in tanti, perché ci si avvantaggerebbe in termini di importi pagati e allo stesso tempo si andrebbe verso un sostegno nei confronti dell'editoria locale. Giovanni, un'ultima domanda: abbiamo detto che l'evasione è stata trasversale, quindi senza penalizzare nessuna regione, però molti ascoltatori ci scrivono perché sono curiosi di sapere quali sono le regioni che evadevano di più. Se non sbaglio, uno tra le regioni c'è anche la Campania, dove il canone era sconosciuto quasi a un contribuente su due. Un ascoltatore invece è curioso sulla Sardegna. Hai questo dato per caso? Guarda, il dato percentuale non particolare, magari se te lo ricordi. Poi il dato numerico della Sardegna non lo ricordo di preciso, certo. Però comunque è insieme alla Sicilia, appunto, va a fare il paio a portare appunto questa soglia di evasione a quasi il 50% in queste due regioni. Quindi bisogna dire insomma che sostanzialmente c'è stato un incremento molto forte all'interno di queste due regioni e insomma adesso l'obiettivo è cercare di portarlo proprio portarlo a livello stabile. Ecco, guarda, ti posso dire che sì, in Sardegna sono diventati 604.403 e insomma la crescita è stata comunque del 30%, in Sicilia invece abbiamo adesso 1.700.000 abbonati con una crescita del 58,1%. Quindi insomma Quindi molto, dati in tempo reale, da Giovanni Parente. Giovanni, sei stato gentilissimo, grazie. Ringraziamo quindi Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore. Chiudiamo qui la nostra pagina dedicata al canone Rai in bolletta e passiamo alla giornata a Piazza Affari. Mercati che oggi svolgiamo in maniera autonoma, quindi partiamo da Milano. In questo momento leggo quindi una chiusura con un più 1,72%, con 21.722 punti, titoli più scambiati, e non poteva essere altrimenti. Vediamo in cima Fiat Chrysler Automobile con un più 7,74% a 10,06 euro, e poi Exor, sempre del gruppo di Fiat Chrysler Automobile, UBI Banca, Enel e Ferrari, migliori del FTSE MIB, i peggiori Poste Italiane, Saipem, Eni, Tenaris e Generali, ma li definiamo peggiori, ma sono comunque tutti in terreno positivo con il segno più davanti. I titoli più scambiati: Fiat Chrysler, Unicredit, Intesa San Paolo, Enel, Eni, Banco BPM, Ferrari e le Generali Assicurazioni. Per quanto riguarda le altre piazze internazionali, vediamo Parigi più 1,20, Francoforte più 1,26, Standard e Wall Street la vediamo tra un attimo, Londra più 0,70%. Per quanto riguarda Wall Street, Standard & Poor's 500 più 0,99%, Dow Jones più 0,64%. Mi interessava vedere anche il Nasdaq, che in questo momento è a più 1,19%, il cambio euro-dollaro 1,1785. Per quanto riguarda l'euro sulla sterlina, abbiamo visto come la moneta britannica la scorsa settimana fosse diminuita, e in questo momento è 0,9075, quindi il cambio euro-sterlina. Mi sembra di aver dato un quadro abbastanza complesso, dove abbiamo dato tutti i listini. Per quanto riguarda le voci su Ferrari, su Fiat Chrysler, dedichiamo a questo aspetto una singola parte della nostra trasmissione, quindi chiudiamo la pagina dei mercati e ci dedichiamo nello specifico alle voci su Fiat Chrysler. Voci cinesi dunque su Fiat Chrysler. Vi sarebbe l'interesse di un costruttore cinese? Approfondiamo questo tema con il collega di Radio Cuore Il Sole 24 Ore, Andrea Fontana. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio, Vincenzo. Allora, Andrea, da dove nascono queste voci, e raccontaci poi tutto quello che è successo in giornata attorno al titolo FCA. Le voci nascono da delle indiscrezioni riportate da un fonte autorevole come Automotive News, un magazine specializzato che non è nuovo a scoop del settore, che quindi è considerato particolarmente autorevole. Automotive News questa mattina ha riportato di un interesse generalizzato di più gruppi. Di costruzioni automobilistiche cinesi, senza fare dei nomi specifici, ma riportando il fatto che uno di questi gruppi si sarebbe già fatto avanti circa un mese fa con un'offerta che sarebbe stata respinta da Exor, verosimilmente quale azionista di riferimento di Fiat Chrysler, perché non ritenuta adeguata, non ritenuta sufficiente. Un'offerta che comunque indica le indiscrezioni sarebbe stata naturalmente con un piccolo premio sulle attuali quotazioni di borsa. Attualmente la capitalizzazione di Fiat Chrysler è intorno ai 16 miliardi di euro, e oltre a questo interesse ci sarebbero altri gruppi che in queste settimane, negli ultimi mesi, avrebbero preso contatti con dirigenti di Fiat, anche con degli incontri avvenuti sia negli Stati Uniti a Detroit sia in Cina, a testimonianza dell'interesse che Fiat rappresenterebbe per l'espansione di gruppi automobilistici cinesi su altri mercati internazionali, cioè è ritenuto un target particolarmente attraente perché forte già su alcuni mercati continentali importanti, ricordiamo Europa, Stati Uniti e America Latina sono tre continenti in cui Fiat recita da protagonista, cosa che per esempio non avviene in Cina. Questo interesse si tradurrebbe nel momento in cui si trovasse ovviamente in un accordo in un acquisto di gran parte degli asset automobilistici di Fiat, che almeno secondo la ricostruzione lascerebbe fuori i due marchi del lusso rimasti sotto Fiat Chrysler dopo lo scorporo di Ferrari, ovvero Maserati e Alfa Romeo, cosa che permetterebbe a Exor di valorizzarli secondo il piano industriale, come è avvenuto per Ferrari, quindi di creare un polo del lusso o comunque di valorizzare i due brand del lusso in maniera indipendente rispetto a quelli a Jeep e a Fiat stesso e agli altri marchi come Dodge, come Ram, che invece passerebbero, secondo questa ricostruzione, al gruppo cinese. Ecco Andrea, immagino che vi siano dei contatti costanti a quei livelli tra grandi gruppi, quindi non mi stupirei, no, degli incontri in Cina o negli Stati Uniti tra vertici di FCA e anche gruppi cinesi. Tra l'altro la FCA in Cina ha inevitabilmente anche dei partner locali. Ma cos'è che secondo te questa volta, perché i mercati hanno reagito con questo sprint maggiore a queste voci? Evidentemente si è percepito che vi può essere qualcosa di reale? Sì, beh, innanzitutto perché la ricostruzione, pur non facendo nomi e pur non arrivando a parlare di trattative specifiche, ricostruisce uno scenario che non è così incredibile, non è così fuori dal possibile, anche perché più volte si è parlato di un progetto di Fiat che lasciasse un attimo da parte, o meglio un progetto Exor Marchione che lasciasse da parte i veicoli tradizionali di largo consumo per concentrarsi sul brand del lusso. Fiat ha da tempo cercato, ricordiamo con General Motors, un'alleanza per volumi importanti. Poi è chiaro che il mercato va anche collocato in una situazione in cui, la reazione del mercato, in cui ad agosto esce una notizia di questo tipo che non trova commenti ufficiali, trova solo no comment dalle parti, e che chiaramente finisce per autoalimentare una speculazione che, come tu hai segnalato, ha coinvolto non solo titoli Fiat Chrysler e titoli certo. Exor, ma anche Exor Ferrari. Bisogna vedere se poi Consob oppure se Fiat si sentirà di precisare eventualmente queste ricostruzioni, che comunque vengono da una fonte autorevole, anche se sembra che di strada ce ne sia da fare. Non per niente la prima offerta, o comunque l'offerta di cui parla Automotive News, è stata respinta. Perfetto, grazie ad Andrea Fontana, collega di Radio Cuore Il Sole 24 Ore. Noi chiudiamo questo spazio dedicato a Fiat Chrysler e ci fermiamo, spazio alle strade. Focus Economia. Di Di nuovo insieme per l'ultima parte di Focus Economia, parliamo di Stati Uniti, e in particolar modo del presidente Trump, perché secondo molti analisti il suo comportamento, la sua presa di posizione su alcuni temi, la sua mancanza di posizione su altri. Immaginiamo solo agli ultimi fatti di cronaca della Virginia, di Charlottesville, renderebbero la Casa Bianca più debole. Allora partiamo da qui e ne parliamo con il collega Marco Valsani alle Sole 24 Ore da New York. Buon pomeriggio Marco. Buonasera a voi. Ecco Marco, è una sensazione che abbiamo noi da qui di vari organismi del potere, ma anche della carta stampata, dell'online, che ci fanno vedere un po' un Trump un po' più debole, o è effettivamente così dopo gli ultimi fatti di cronaca? Ma è sicuramente così. Ora si tratta di vedere come, se riuscirà a superare anche quest'ultima crisi, diciamo, di propria diciamo, di propria fattura, ecco. Sicuramente Trump, diciamo, a seconda dei critici, diciamo, che sono ormai numerosi e sono cresciuti nei giorni, ecco, ha o perso un'occasione, cioè un'occasione per cercare di unire il paese, di salire al di sopra della sua stessa retorica divisiva del passato, oppure peggio, oppure la sua presa di posizione così inadeguata nei confronti degli eventi di Charlottesville riflette dei problemi più gravi all'interno della sua stessa della stessa Casa Bianca, all'interno, diciamo, del suo atteggiamento, della sua identità politica, che appunto gli rendono difficile prendere le distanze da quella che, certo, è stata questa azione dei suprematisti bianchi. Ecco, per esempio, questo passo indietro dell'amministratore delegato del colosso farmaceutico Merck, Ken Frazier, che lascia il consiglio dei leader manifatturieri della Casa Bianca, aiutaci ad interpretare questa notizia. È importante perché ce ne rendiamo conto, ma cosa vuol dire per l'opinione pubblica americana? Viene presa in considerazione o è una notizia per gli addetti ai lavori? No, è sicuramente un segnale forte, un segnale significativo e che può avere un impatto sul paese. Ecco, Ken Frazier, oltre a essere il top executive di un colosso farmaceutico quale Merck, diciamo, dei, certo, grandi del paese, è anche un afroamericano, degli afroamericani più influenti nel business statunitense. Ed è anche uno dei pochissimi, anzi è l'unico top executive afroamericano uomo all'interno di questo consiglio, diciamo, di consiglieri di Trump sul settore manifatturiero. Quindi la sua uscita, diciamo, chiaramente comunque in con una presa di distanza e polemica sulle divisioni razziali nel paese, sulla inadeguato atteggiamento, anche se non l'ha detto apertamente, ma chiaramente il messaggio era questo, inadeguata presa di distanza della Casa Bianca da quel tipo di manifestazioni, da quel tipo di espressione politica dell'alt-right, dell'estremismo di destra più radicale, con frange assolutamente neonaziste, antisemite e di suprematismo bianco, di razzismo aperto, che si è visto a Charlottesville. Quindi una presa di posizione significativa che riflette un malumore più diffuso nella corporate America. Abbiamo visto comunque informali prese di posizione anche di Lloyd Blanchfield di Goldman Sachs, come anche di, certo, Steven Schwarzman di Blackstone Group, e in passato abbiamo già visto delle defezioni significative, quella di Elon Musk di Tesla, sì, dal consiglio, appunto, a sua volta manifatturiero, dopo l'uscita, la decisione di Trump di strappare, diciamo, dal punto di vista americano l'accordo di Parigi, come anche per la stessa ragione di Bob Iger di Disney, che era uscito da un altro consiglio, diciamo, di businessman di Trump negli stessi giorni di Musk. Quindi ecco un disagio della corporate America che si fa forte e forzato anche proprio perché si rende conto una parte significativa della corporazione americana della necessità di uscire allo scoperto, di prendere posizioni significative, tanto più quando la Casa Bianca appare ambigua su questi che sono problemi sociali e politici seri di divisione del paese e su questo sdoganamento, diciamo, dell'estremismo di destra che volente o nolente è avvenuto sotto Trump, perché comunque questi dimostranti hanno rivendicato apertamente, oltre al loro atteggiamento violento, hanno rivendicato apertamente il loro sostegno, diciamo così, a Trump, visto un po' come il simbolo dal loro punto di vista di una, così, di una rivalsa dei bianchi d'America contro tutto quello che è multiculturalismo, contro tutto quello che è di fatto progresso. Ecco, proprio questo ti volevo chiedere, Marco. Alla fine anche il Financial Times denuncia il vuoto alla Casa Bianca, quello che dicevi tu pochi istanti fa, però poi in realtà se si guarda lo zoccolo duro che ha portato Trump alla Casa Bianca, non credo che abbia perso tantissimi punti, per cui forse abbiamo veramente questa contrapposizione tra il mondo corporate, come dicevi tu, e dall'altra parte una certo taglio della popolazione che resta fedele al presidente americano. Sicuramente Trump continua a mantenere il consenso di una parte dell'elettorato, c'è cioè quel 30%, 28%, insomma, quello che è, a seconda dei sondaggi, comunque di una fetta consistente, che non è chiaramente fatto tutto da estremisti della destra radicale. È anche in grado tuttora di far leva su quello che è un disagio sociale vero di una parte del paese che è rimasto emarginato dalla ripresa, che di una parte di ceti medi bianchi e impoveriti, che non si sente rappresentato e che comunque esprime ha espresso in Trump, nel sostegno a Trump, un voto di protesta. Ecco, questa fetta del paese rimane al momento fedele a Trump, però non necessariamente per queste ragioni, diciamo così, di razzismo e di estremismo parafascista, certo. Aperto, ma per appunto queste come espressione di disagio sociale. Ecco, il problema che si pone per la Casa Bianca è come, diciamo, mantenere il consenso di questo, diciamo, come continuare a esprimere questo disagio, ma non tollerare questo tipo di sostegno, questo tipo di sdoganamento dell'estrema destra. È un problema che Trump non ha risolto. La corporate America si sta facendo sentire sempre di più, così come anche altre ampie fette del paese, come fette stesse importanti del Partito Repubblicano, si sta facendo sentire per fare pressioni su Trump perché corregga il tiro. Finora non ha dimostrato di saperlo fare. Bene. E non si sa se riuscirà a farlo in futuro. Questo è sta diventando un grosso problema politico per la Casa Bianca e per il paese. Grazie a Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, e noi andiamo al nostro ultimo approfondimento. Parliamo velocemente delle zone colpite dal sisma un anno fa. Vi è stata oggi una polemica relativa al pagamento o meno delle tasse da parte di questi comuni. Sull'esenzione da tasse e contributi ci hanno preso in giro. Questo l'allarme di questa mattina del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. Poco fa la replica invece del presidente del Consiglio Gentiloni in visita ad Arquata del Tronto. Ascoltiamo Gentiloni. Noi sulle zone franche abbiamo, credo, un impianto legislativo solido, l'impegno economico finanziario più rilevante che ci sia mai stato in una ricostruzione nell'Italia di questi decenni. E certamente se ci sono delle obiezioni, noi siamo sempre stati aperti, in particolare con i sindaci e in particolare con il sindaco di Amatrice, a valutare osservazioni eccetera, ma non è stato fatto nulla di diverso da quello che è contenuto nella legge e credo che sia un ottimo impianto anche per le zone franche urbane. Si può fare di più, noi siamo disponibilissimi a parlarne con Sergio Pirozzi, che merita tutto il nostro consenso e supporto, e con i sindaci siamo pronti. Non posso escludere che non ci siano difficoltà, perché sarei un pazzo, no? Cioè, quando c'è un percorso di ricostruzione dopo scosse di terremoto ripetute per 3 volte in un'area così vasta, forse non era mai successa una catastrofe così grave negli ultimi decenni in Italia, insomma siamo di fronte a un compito enorme, però abbiamo un buon impianto, abbiamo risorse economiche necessarie, abbiamo l'impegno di tutti, penso che ce la possiamo fare. Credo che sia nella legge tutto chiaro, ma se ci sono cose da aggiustare le aggiusteremo. Queste dunque le parole del Presidente del Consiglio Gentiloni. Per Focus Economia è tutto. Un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, Alessandro Chiappini e Gianmarco Ferronato in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta.